Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda l'economia generale dell'area euro, parleremo chiaramente dell'aggiornamento, di quello che si chiama Outlook, sullo scenario economico diffuso oggi dalla Commissione europea, che sostanzialmente vede una differenza anche abbastanza forte tra paesi e paesi dell'Unione europea, con cali chiaramente molto forti. Diciamo che il titolo più forte è che l'area euro non tornerà ai livelli economici dell'economia pre-pandemia nemmeno nel 2022, perché ci saranno, viene vista una crescita leggermente superiore per il 2020, ma leggermente inferiore per il 2021. E faccio notare che questi dati rischiano di essere, ahimè, vecchi, perché elaborati con dati prima del giro di vita che è avvenuto in Francia, in Gran Bretagna, ma in questo caso parliamo solo della zona euro, in altri paesi, in Austria e chiaramente anche in Italia. Complessivamente il PIL dovrebbe contrarsi del 7,8% quest'anno, l'anno prossimo fare più 4,2% e più 3% nel 2022. La Spagna è in testa come crollo del PIL, meno 12,5% quest'anno. Segue l'Italia, Croazia e la Francia che hanno cali tra il 9,9% e il 9,4% e anche il Portogallo, un gruppo dei paesi con un meno 9%. La Grecia anche farà meno 9%, il Belgio un po' meno, meno 8,4%, la Germania meno 5,6%. Differente la situazione dell'Irlanda, dove il PIL frenerà solo del 2,3%. Per cento, comunque confermato che anche l'Italia non tornerà a livello pre-pandemia entro il 2022, perché l'anno prossimo faremo più 4,1 e che erano invece di un più 6,1%. Il deficit e il debito dell'Italia inizieranno a calare nel 2021 e la disoccupazione schizzerà all'11,6% nel 2021, perché in questo momento non vi è stato un aumento della disoccupazione sia per la cassa integrazione, l'utilizzo della cassa integrazione, che per il blocco dei licenziamenti. Faccio notare che è intervenuto anche il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, che ha detto la ripresa si è interrotta, la crescita si fermerà nel quarto trimestre per via della recrudescenza della pandemia e delle misure che sono state prese. Non preoccupa la sostenibilità del debito italiano, e anche di questo parleremo chiaramente. E poi oggi commenteremo un dato, o meglio due dati, che possono essere in contraddizione. Da un lato emerge da uno studio che sono 14.000 le piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti su Amazon all'estero, e con un grosso aumento delle piccole e medie imprese italiane che utilizzano la piattaforma più conosciuta per vendere all'estero. Dall'altro lato però un'indagine di cui parleremo dell'Osservatorio Innovazione Digitale delle Piccole e Medie Imprese del Politecnico di Milano fa notare che 3 su 4 prima del lockdown non effettuavano vendite online. La proporzione è diventata di 2 su 3 perché c'è stato un movimento, cioè si è scesi diciamo dal 75% che non effettuavano vendite online a solo un 66%, però è una quota ancora molto alta. Lo dico perché qui parliamo di imprese, non di imprese anche manifatturiere, non solo delle imprese del mondo dei servizi e non solo chiaramente la parte che riguarda la manifattura. Però è chiaro che questa situazione deve spingere le imprese manifatturiere, le imprese dei servizi e anche le imprese del commercio nell'accelerare la loro capacità digitale, cioè di vendere online, nel paese e poi di utilizzare le piattaforme, le grandi piattaforme per vendere online negli altri mercati. A questo proposito torneremo sul tema della ristorazione in attesa del meccanismo dei nuovi ristori, cioè il DL Ristori Bis, che dovrebbe avere una dotazione di un altro 1,5 miliardi, oltre al DL Ristori che vale più o meno 2,5 miliardi per quello che riguarda il fondo perduto, perché ci sono altre categorie che sono entrate nelle zone rosse e nelle zone arancioni, come mai abbiamo imparato. Però mentre oggi il mondo degli alberghi segnala una media di crollo del fatturato alberghiero dell'83% per quest'anno, c'è una proposta per arrivare a una specie di piano Marshall per la ristorazione che vorremmo ascoltare. E i mercati finanziari, devo dire che Wall Street ha aperto più che bene e adesso guadagna il 2,12% in attesa di sapere se avremo o no se Biden raggiungerà la quota dei voti che gli servono per mettere in sicurezza la sua elezione, con tutte le contestazioni di Trump che abbiamo raccontato anche nel GR24. Bene anche Milano, più 2%, bene Parigi, più 1,26%, Francoforte, più 2%, segnalo da noi in forte crescita alcuni titoli, in particolare Tenaris, più 13,7%, CNH, più 5%, Moncler, più 4,20%, Atlantia, più 3,5%. Tutti i mercati, come avete sentito, sono in rialzo sulla scia di Wall Street. Tenaris si avvantaggia anche della trimestrale, e l'altra è anche Case New Holland, anch'essa con una trimestrale dove i ricavi sono migliori delle attese, e poi sta andando bene tutto il settore tecnologico. ST Microelectronics non fa eccezione da noi, appunto più 3,20%, Poste più 3,40%, Atlantia più 3,5%, e ancora Banca Generali più 3%. Di negativo c'è Bipper meno 1,90%, Italgas meno 1%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vedo molti messaggi, come era presumibile, sulle decisioni del governo. Guardate, sicuramente non tornerò alla critica, anche molto pesante, che ho mosso ieri alle regioni. Qualcuno ha detto è stato troppo generico. Ho fatto anche nomi e cognomi di alcuni governatori. Io capisco benissimo che non faccia piacere a nessuno essere in zona rossa e anche in zona arancione, però ci sono degli indicatori. C'è stata una lunga conferenza ancora in corso dell'Istituto Superiore della Sanità con Brusaferro, hanno spiegato le 21 caratteristiche, hanno spiegato bene che dopo 2 settimane uno poi viene rivista verso l'alto, verso il basso, cioè puoi anche scendere in senso positivo da un livello a un altro, oppure finire in un livello superiore. Capisco benissimo, e lo dico perché abito in una zona rossa come la Lombardia, che le limitazioni che pone la zona rossa, sostanzialmente l'autocertificazione sempre per qualunque attività, non facciano piacere a nessuno. Però continuo a non capire, lo dico questa volta senza arrabbiarmi, cercherò di non arrabbiarmi, non riesco a capire che cosa vuol dire questa polemica che continua. Adesso in qualche modo oggi il ministro Speranza ha detto: e sono le regioni che ci danno i dati, non possono ignorare la gravità dei dati che ci danno. La Calabria impugnerà l'ordinanza del ministro Speranza perché è finita in zona rossa. E poi ancora il governatore della regione Lombardia, Fontana, ieri ha detto: è arrivato uno schiaffo in faccia alla Lombardia, a tutti i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita. Io non aggiungo altro, perché se devo pensare o commentare che cosa merita la gente lombarda, dovrei aggiungere qualcos'altro su cosa merita o non merita questa regione. Ma e poi Fontana sempre ieri ha detto: io vorrei aspettare qualche giorno per vedere qual è l'evoluzione della nostra linea pandemica, se ha miglioramenti, si potrebbe continuare per questa strada, altrimenti in una direzione diversa io accetto le chiusure. Oggi gli ha risposto in qualche modo il direttore sanitario della ATS. Io faccio notare a Fontana, però adesso non è che posso fare una polemica con Fontana, ma è da settimane che stiamo raccontando anche nel GR24 l'allarme che lanciano i responsabili del pronto soccorso, il 118, l'ordine dei medici lombardi, gli anestesisti lombardi. Voglio dire, parli con i medici, visto che la sanità è di pertinenza regionale e i dati li invia la Regione Lombardia. Il direttore sanitario dell'ATS di Milano dice: attenzione, abbiamo un RT a 2,01, cioè, così lo spieghiamo a tutti, ogni, anche l'assessore Gallera, tanto la battuta ce l'avevo qua, che ogni persona ne infetta due. Allora, gli indicatori c'erano già, ci sono altre regioni con ospedali in sofferenza. Dice il direttore dell'ATS Milano, Vittorio De Micheli, il problema semmai è che siamo in ritardo di 2 settimane e bisognava chiudere prima. Ora io dico semplicemente, ma voglio dire, parlatevi tra di voi, cioè parlatevi con le vostre strutture. Poi uno mi dice la Campania, allora ho visto che De Magistris è sconcertato perché voleva una zona non gialla ma più rossa o arancione, e quindi non va mai bene, capisci? Cioè c'è quello che la voleva più arancione, più rossa, e dice: com'è che siamo gialli, siamo sconcertati, dice De Magistris. Musumeci in Sicilia, che è finito in zona arancione, se non ricordo male, ha detto: sembra di essere su Scherzi a parte, vabbè. Zaia dice: il nostro modello ha tenuto, commentando la classificazione del Veneto che è gialla. Cirio, governatore del Piemonte, dice: il governo spieghi la logica delle scelte. Anche guardare i dati ogni tanto può aiutare ai governatori, no? Visto che sono loro che li mandano in giro. Dopodiché veramente io non capisco, non è una partita di calcio, non c'è la VAR, non c'è da attribuire l'errore arbitrale, c'è da prendere atto che ci sono degli indicatori che verranno riaggiornati. Magari, ripeto, fra 2 settimane scopriremo che alcune zone gialle, io non glielo auguro, sono diventate arancioni, alcune arancioni gialle e alcune rosse gialle. Brusaferro ha chiarito che ecco anche i dati di oggi. Brusaferro ha chiarito che alcune aree anche in zone gialle possono diventare rosse, no? Quindi attenzione, sono tornato il conduttore compassato, sì, perché ci tengo alle mie coronarie, però non veramente ognuno che si lamenta, ma senza mai assumersi una responsabilità, dici che cosa non avete fatto in questi mesi per tracciare i casi, per creare le USCA sul territorio, per avere una medicina territoriale che funzioni meglio, per avere qualcuno che risponda al telefono. E quindi quando chiami qualcuno della TS che ti possa rispondere, dire: guardi, lei deve stare a casa, non vada in ospedale, si controlli la temperatura. Ho decine di casi qui in Lombardia in cui la TS, dopo giorni, una settimana, 8 giorni, ha mandato una mail, ma non ha mai chiamato al telefono nessuno. Decine di casi che conosco. Allora occupiamoci di questo. Bisogna prendere più persone per garantire l'assistenza telefonica, così la gente non si riversa nei pronti soccorso, magari utilizzando l'ambulanza. Sì, la mia è ancora una trasmissione economica, così lo dico a chi mi scrive, perché adesso sto per ricordare che anche nella zona rossa, attenzione, va letto molto bene il DPCM presente su tutti i siti, ci sono attività commerciali che restano aperte, mentre non restarono aperte quando vi fu il lockdown nazionale di marzo e aprile. Per cui, dando per scontate tutte le attività che vendono prodotti alimentari, i prodotti surgelati, ma ci sono, adesso non posso fare tutto l'elenco, per esempio anche chi vende computer e attrezzature per la telecomunicazione elettronica di consumo resta aperto, anche chi, vabbè, i tabacchi avevamo già detto, ferramenta, vernici, vetropiano, materiali da costruzione restano aperti negli esercizi specializzati, anche chi vende articoli igienico-sanitari, chi vende prodotti per il giardinaggio, le librerie restano aperte, chiaramente le edicole, le cartolerie, le forniture per ufficio, chi vende calzature per bambini neonati, chi vende biancheria personale, articoli sportivi, parlo sempre di negozi di commercio al dettaglio, articoli sportivi, biciclette, motocicli, relative parti di accessori, giocattoli e giochi in esercizi specializzati, medicinali, questo lo davo per scontato, cosmetici, l'abbiamo detto, fiori, piante, bulbi e semi fertilizzanti, quindi i fiorai sono aperti, animali domestici, cioè vendono non animali domestici ma prodotti per animali domestici, materiale per ottica e fotografia, saponi detersivi va bene, articoli funerari, cimiterari va bene, e ortofrutta, ittica, carne, fiori, piante, prodotti anche ambulanti, qui sono il commercio al dettaglio ambulante. E poi sui servizi per la persona, le lavanderie, sia industriali che diciamo quelle normali, servizi pompe funebri e barbieri e parrucchieri. Quindi ci sono più categorie. È chiaro però che per andare in questi, ma chi rimane chiuso? Un negozio di abbigliamento normale resta chiuso. Ho chiarito che insomma, calzature per bambini neonati, così dicono i servizi aperti. È chiaro che devi andare sempre anche in questi negozi nelle zone rosse con l'autocertificazione, perché serve per spostarsi anche durante il giorno, anche prima del coprifuoco. Poi c'è la chiusura delle scuole, ma io lì cos'altro posso aggiungere sull'idea che l'unica cosa che i governatori hanno chiuso in fretta e furia sono state le scuole, perché tanto chi se ne frega degli studenti e delle scuole superiori prima di aspettare qualunque misura del governo, ok? Gli hotel certo che possono restare aperti, dipende se lo faranno, ahimè, lo dico per i proprietari degli hotel. Però attenzione che nelle zone arancioni la didattica a distanza è solo per le superiori, mentre nelle zone rosse la didattica a distanza è dalla seconda media in su, quindi una delle grosse differenze è questa tra zone rosse e zone arancioni, per il resto insomma è abbastanza simile. Allora, oggi è intervenuto il presidente della regione Toscana Giani, a 24 mattino ha detto la divisione in aree non è una scelta politica, è una scelta dettata dagli indicatori, quindi non c'è, il governo, l'area rossa, arancione, gialla, non si legge nella distribuzione alcuna scelta politica. Tensione in generale tra le regioni e il governo è stata molto forte, mi sembra, in questi ultimi giorni. Indubbiamente, ma devo dire che noi dobbiamo pensare non a queste zone come una sorta di classifica, meglio o peggio, noi siamo tutti nella stessa barca in tutta Italia, se ci sono dei parametri che indicano zone maggiormente delicate, più a rischio, è giusto vi siano provvedimenti più restrittivi. È stato giusto che fossero provvedimenti fatti dal Presidente del Consiglio e è stato giusto che in qualche modo questo dibattito stimolasse un po' gli italiani a comportamenti individuali che sono importantissimi. Io non ci legge Gianni una scelta politica? Ma io non ci leggo una scelta politica. I dati che ci vengono richiesti sono sufficientemente oggettivi e sono sufficientemente in grado di darci un quadro della situazione, anche perché onestamente la pandemia si sta presentando rispetto al periodo di marzo-aprile, questa volta diffusa proprio su tutto il territorio nazionale, quindi insomma sono assolutamente casuali i riferimenti al governo delle singole regioni. Allora, qualcuno contesta la scelta politica, ma tanto questo è un paese in cui si contesta sempre qualcosa. Guardate, anch'io non riesco a capire la connotazione politica delle zone. Cioè il Veneto, Zai ha detto, ha fatto un discorso secondo me molto corretto, Zai ha detto attenzione, qui non è una vittoria, non è una medaglia, se non gestiamo la situazione tranquillamente si va da zona gialla a zona arancione o zona rossa. Per cui... Ma è veramente difficile trovare un legame sulla base dell'orientamento politico nel voto. Onestamente, il Veneto è una regione di centrodestra, ma anche alcune regioni del centro sono in zona gialla. E hanno chiarito che i parametri riguardano anche la capienza, cioè non basta solo il numero di contagi, ma anche qual è la capienza della tua struttura ospedaliera. Anche a me ha sorpreso la Campania, sì, ma è un mio giudizio personale, nel senso non ho i dati alla mano. Ancora per quello che riguarda i ristori, ieri su questo è intervenuto anche il presidente Consiglio Conte nella conferenza stampa, ha detto che gli stanziamenti saranno sufficienti anche per i nuovi ristori. Per quanto riguarda i ristori, adesso in questo momento non le anticipo una cifra, perché è chiaro che alla ragioneria stanno lavorando col Ministero, col MEF, col Ministero dell'Economia, stanno facendo di conto in questo momento. Però sicuramente ci sono adeguati stanziamenti per questo nuovo decreto Ristori Bis. Potrebbero essere sicuramente nell'ammontare che le ha indicato, 1,5-2 miliardi, ma noi, io l'ho detto, col governo siamo determinati. Adesso stiamo affrontando questa battaglia, e quando si affronta una battaglia così difficile, una prova così dura per l'intera comunità, per l'intero paese, bisogna essere pronti a fare tutto il necessario. Quindi se ci fosse necessità di avere, disporre di ulteriori risorse, dobbiamo essere pronti, se del caso, non se ne ravvisa immediatamente, ma se del caso anche a presentarci in Parlamento con grande senso di responsabilità anche per un ulteriore scostamento, ma non l'abbiamo ancora deciso, perché per adesso abbiamo stanziamenti, a quanto mi viene anticipato, sufficienti. Dunque, alcune domande che pongono gli ascoltatori. Allora, se uno abita in un comune, parliamo chiaramente delle zone rosse, in un comune dove non c'è un servizio, ieri Conte ha chiarito che lo spostamento è legittimato da un comune se nel tuo comune manca quel servizio, e quindi manca quell'esercizio commerciale, manca quel commercio dettaglio. È chiaro che molti mi stanno chiedendo, ma io come faccio ad andare a comprare un libro, un giocattolo? Usi l'autocertificazione, cioè l'autocertificazione certifica che ti stai recando a fare un acquisto, in questo caso, anche perché è il solito principio, tu ti puoi spostare all'interno dei territori per comprovate esigenze lavorative o di salute o di necessità, e quindi direi ho una necessità di comprare. È ovvio che se i negozi restano aperti, quello rientra nelle categorie per cui ti puoi spostare, un po' come quando erano aperti solo i panifici, gli alimentari, i supermercati, e uno andava dove stai andando? Sto andando a fare la spesa, tutto qua. No, ma la cosa più importante, mi sembra, oltre che le chiusure e le aperture in più rispetto a marzo e aprile, è chiaramente che c'è una limitazione fortissima alla mobilità, al di là degli acquisti, cioè non puoi uscire dal tuo comune, quindi figurati se puoi uscire dalla regione, e la chiusura totale di bar e ristoranti, che vale anche per la zona arancione, è ovvio che ha l'obiettivo, se l'ho capito bene, di ridurre a zero la possibilità di contatti, cioè un conto entrare in un negozio scaglionati, fare un acquisto con la mascherina e uscire, un conto è essere a pranzo in un ristorante, in un bar senza mascherina perché giustamente stai mangiando. Questa è la grossissima differenza nella vita, oltre che la possibilità per le zone verdi di spostarsi, anche se il governo ha invitato solo quando c'è necessità, all'interno delle zone gialle, scusatemi, della loro area, e anche tra zona gialla e zona gialla. Siccome è giunto anche a me il WhatsApp, e poi andiamo sul meteo, quando ti puoi spostare solo tra zone gialle e sei la Basilicata, che è circondata da zone arancioni e rosse, il governo ha chiarito che chiaramente tu ti puoi spostare da una zona gialla a un'altra zona gialla se anche attraversando un'eventuale zona rossa. Cioè il problema è la destinazione che tu stai avendo. Se vuoi andare dalla Basilicata in Toscana o in Lazio, lo puoi tranquillamente fare come destinazione finale. Non è che attraversando la zona rossa uno viene contaminato. Su. Allora, andiamo adesso sul meteo e poi l'aggiornamento dei dati. Certo, qualcuno mi chiede perché non ho fatto una classificazione per aree, addirittura le province. Temo che sarebbe venuto fuori ancora più confusione, ma soprattutto io non sono rimasto sorpreso sul Piemonte e la Lombardia, lo dico contro il mio interesse, lo sappiamo tutti che abbiamo e sono rimasto forse più sorpreso sulla Campania, sì, per carità. Adesso vediamo, anche perché stanno arrivando nuovi dati, il Veneto oggi ha avuto, ahimè, un record di nuovi tamponi positivi, 3.240, sono usciti anche i nuovi casi, non sono belli, lo dico subito, sono i morti, sono saliti a 445, chiaro che magari si tratta, però insomma, i tamponi sono alti 220.000, i casi nuovi sono 34.500, sono gli unici dati che ho in mano in questo momento, e i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 99 in più, questo non è un dato così allarmante, molto alto il dato sui morti oggettivamente. Andiamo sul meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi sta scrivendo anche domani ho un appuntamento in banca, tutti gli spostamenti per lavoro sono per appuntamenti professionali, ha un appuntamento in banca, deve fare un'operazione finanziaria, li metti in autocertificazione e ho già chiarito che ti puoi spostare anche fuori dal tuo comune, anche in zona rossa, se c'è un esercizio commerciale di quelli che possono essere aperti che non è presente nel tuo comune, come appunto mi sta scrivendo un ascoltatore, io ho un negozio di pasta fresca che non puoi andare nell'altro comune dove c'è un negozio di pasta fresca, dopodiché per favore torniamo anche un minimo di concretezza, è l'autocertificazione che abbiamo usato a marzo e aprile, con la differenza che ci sono più esercizi commerciali aperti. Mette. Focus Economia. minuti, no, sorrido perché mi stanno arrivando qualunque, io capisco, ma ragazzi non è così difficile, adesso mi ha scritto un ascoltatore, io devo andare a consegnare dalla Toscana in Lombardia dell'olio per dei clienti privati e mette nell'autocertificazione che sta consegnando un prodotto, immagino che se è gratuito abbia pazienza, è un po' difficile, allora tutti quanti prendiamo una bottiglia d'olio e ci spostiamo nelle regioni perché dobbiamo consegnare una bottiglia d'olio, ma se lei oggi, come io immagino, deve vendere quest'olio dietro regolare appunto fatto, vada lo mette nell'autocertificazione, deve vendere l'olio, certo che una fattura me la farei dare, ecco, no, che sennò diventa difficile, e questo vale per tante altre domande che mi stanno arrivando, alcuni mi dicono ma se la mia attività è fuori dal comune ci si può spostare se manca quell'attività nel comune, lo dico per l'ultima volta. Adesso però cambiamo tema un attimo, perché continua anche questa settimana il viaggio virtuale di Radio 24 tra le imprese vincenti, perché su questo il nostro Andrea Ferro ci sta accompagnando in giro per l'Italia assieme a Intesa San Paolo, e il tour ha fatto tappa questa volta in due posti molto diversi, da un lato Roma, dall'altro Bergamo. Il diario di viaggio tra le piccole e medie imprese è il racconto di un mondo composto da realtà che testimoniano uno spirito imprenditoriale fatto di duttilità e resistenza. È un diario che scriviamo seguendo il Digital Tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa promossa da Intesa San Paolo per mettere in luce un tessuto economico intriso di eccellenze. Il Giro d'Italia ha fatto tappa a Roma, vetrina per le imprese di Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, e a Bergamo, dove sono state presentate anche le piccole e medie imprese selezionate tra Como e Lecco. È su questa parte della Lombardia, motore produttivo del paese, che in apertura focalizziamo l'attenzione. Stefano Scaglia è il presidente di Confindustria Bergamo. Siamo il quinto territorio in Europa per valore aggiunto manifatturiero. Un manifatturiero di due caratteristiche. La prima è che è ad alta tecnologia, c'è una costante crescita sul totale della percentuale del manifatturiero ad alta tecnologia come definito dall'Istat. E la seconda caratteristica importante è che è fortemente vocato all'export. In 10 anni le nostre esportazioni sono cresciute del 60%. Bergamo, grazie al forte attivo della sua bilancia commerciale, contribuisce in maniera significativa all'attivo della bilancia commerciale italiana. Ben il 12% dell'attivo della bilancia commerciale italiana si origina a Bergamo. Nella prima ondata della pandemia Bergamo ha pagato un prezzo carissimo, umano, sociale, chiaramente anche economico. Per avere un'idea della portata di questo calo, lo possiamo paragonare a quello che è successo nella crisi del 2009, in cui il calo era stato del 12%, ma che si era manifestato su un arco temporale di 2 anni. Abbiamo impiegato 10 anni poi per tornare ai valori ante 2009. Noi abbiamo provato a ipotizzare insieme ad alcuni istituti economici di ricerca quello che poteva essere un eventuale percorso di uscita, e avevamo ipotizzato circa 3 anni di recupero, quindi una ripresa più rapida di quella precedente. È chiaro che questo era stati ragionamenti fatti prima di questa seconda ondata, impatta molto, stante anche che i nostri mercati di sbocco sono non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo. Ora, 4 testimonianze di imprese tra nord e sud. A Merate, in provincia di Lecco, sorge lo stabilimento di Gicar, azienda che da anni segue tassi di crescita costanti grazie ad una particolare specializzazione produttiva. Donatella Arlati è la general manager. Siamo praticamente in tutto il mondo dove ci sono le macchine del caffè. Diciamo che abbiamo ancora il cuore come l'artigiano che cura particolar modo con attenzione la produzione, e la testa invece nella gestione di tutto il sistema. Siamo certificati ISO 9001 già dal 94, quando nessuno ci chiedeva di essere certificati, però è stata proprio una scelta perché stavamo crescendo e quindi avevamo bisogno di un supporto organizzativo. Sono tutte cose che probabilmente aziende delle nostre dimensioni non hanno. Noi siamo invece molto attenti a queste cose, alla crescita, sia nella formazione dei collaboratori che appunto nella crescita organizzativa della società. Rimaniamo a Lecco, iPratico, azienda del comparto digitale, vanta un primato. Domenico Palmisani è l'amministratore delegato. È stata la prima azienda al mondo a realizzare un gestionale per le attività di ristorazione su piattaforma Apple. Siamo stati i precursori di una realtà che oggi possiamo vedere nelle nostre abitudini quotidiane quando entriamo in un ristorante, in un bar o in una gelateria. Quando ancora non esisteva l'iPad, il ristoratore con un iPhone poteva raccogliere le ordinazioni dei clienti, dividere i conti in più parti. Le nostre soluzioni stanno incontrando sempre maggior successo sul mercato. Noi abbiamo aperto un'era, che è questa la nuova generazione dei sistemi gestionali per il punto vendita. Oggi immaginiamo che permettiamo ai nostri utenti di prendere le ordinazioni con dei semplici comandi vocali. Ora, dalla Sicilia, la testimonianza di un'impresa dolciaria che in pochi anni è diventata una solida realtà grazie ad un frutto, il pistacchio. Nino Marino è uno dei fondatori di Pistì. Inizia da una grande voglia, da un grande sogno di fare qualcosa di nostro, ma soprattutto di fare qualcosa nella nostra terra con le nostre forze. Siamo di Bronte e partiamo dal prodotto che più ci rappresenta. Negli ultimi 5 anni siamo cresciuti del 25-30% annuo, fino ad arrivare nel 2019 a 45 milioni e mezzo di fatturato. Quest'anno credo che siamo totalmente in controtendenza, perché abbiamo sviluppato e svilupperemo, chiuderemo, Covid compreso, a quasi 60 milioni, 58 milioni di fatturato. Esportiamo in 41 paesi, dalla Nuova Zelanda alla Corea, al Giappone, piuttosto che all'Europa. In Abruzzo, a Tortoreto, in provincia di Teramo, un'altra azienda caratterizzata da una crescita a doppia cifra, in questo caso sull'onda dell'innovazione. È ACS, produce componenti in fibra di carbonio. Roberto Catenaro è l'amministratore delegato. Circa 6 anni siamo passati da circa 170.000 euro di fatturato fino a raggiungere i valori poi del 2019, che sono circa 5 milioni e 2, e quest'anno ci si muoverà, Covid permettendo, verso i 6 milioni. Quelli che riteniamo essere stati un po' le nostre armi vincenti sono state un team molto giovane che partiva da precedenti esperienze nello stesso settore, con ovviamente ottimi risultati ottenuti già in passato. Gli altri 2 fattori importanti sono stati la capacità di adattarci alle richieste del cliente e una capacità forse maggiore rispetto ad altre aziende del settore di investire in nuove tecnologie. Infatti, a differenza di molte aziende, siamo forse una delle poche che riesce a gestire almeno 3 diverse tecnologie che normalmente in applicazioni come queste molto di nicchia, cioè nei materiali compositi, sono scarsamente utilizzate. 17:49 minuti, andiamo sul traffico adesso e poi cerchiamo di commentare anche i dati economici di oggi. 349 indicato europeo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus economia. Ho tenuto la mascherina, quindi adesso la levo, se no si sente male. 17:51 minuti. Allora, poi citerò anche Rezza, il direttore di prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che ha detto: attenzione, ha spiegato perché la Lombardia è in rosso e anche la Calabria, pur avendo la Lombardia più casi, ma l'R con T della Calabria è più alto, la Campania ha molti casi, ma un R con T molto più basso rispetto alla Lombardia e alla Calabria. Non è che possiamo trasformare però tutto in proporzioni. E così come rispondo anche ad alcuni ascoltatori, guardate che i sindaci e i governatori hanno sempre la possibilità di fare misure più restrittive. Quindi De Magistris, invece che polemizzare su tutto, se ritiene che sia sbagliato che la Campania sia in zona gialla, almeno faccia ordinanze più restrittive per Napoli, lo può fare tranquillamente. Il governo ti mette la possibilità di essere più restrittivo e i sindaci hanno anche questo potere, invece che chiacchierare sempre e comunque. E vale anche in parte, diciamo, poi visto che c'è un distinguo oggi di Fontana, anche Fontana dobbiamo essere coinvolti, ma la vedi la situazione su. Allora, Daniel Gross, che da questo punto, buonasera Daniel Gross, direttore della European Center for Political Studies. Buonasera Gross. Buonasera. Ecco, con lei vorrei solo un commento per quello che riguarda le previsioni diffuse oggi dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, che ha visto un leggero miglioramento sul 2020, però ha ritoccato un po' in basso il 2021 e ha detto in sostanza che nemmeno nel 2022 riusciremo a recuperare i livelli del 2019. È tutto dovuto a un quarto trimestre che dovrebbe frenare? No, il quarto trimestre non potrà incidere molto. Io penso tra l'altro che l'Italia uscirà un po' meglio da questa crisi, perché si è già visto che il terzo trimestre è andato oltre le attese e io mi aspetto un recupero più veloce di quanto lo prevede la Commissione. Sull'Italia? Sull'Italia, sì. Perché in effetti le previsioni della Commissione vedono in questa poco esaltante classifica la Spagna a -12,5%, poi c'è un gruppo di paesi, Italia, Croazia, Francia e Portogallo, che cala tra il 9,3 e il 9,9 dell'Italia. E poi la Germania, distinta, a un -5,6 e vabbè, l'Irlanda. Ecco, lei ritiene che quindi la reazione della manifattura, perché sul commercio purtroppo la frenata c'è stata già ad ottobre, ma della manifattura il 16% di recupero del PIL sia bene augurante poi per la chiusura d'anno? Sì, anche perché le nuove misure incideranno molto meno sull'attività economica che non quelle di febbraio e marzo. Per cui io vedo l'industria italiana su un recupero abbastanza veloce e lo può continuare anche se c'è questo lockdown light, e l'anno dovrebbe finirsi meglio del previsto. Ah, ecco, quindi lockdown light è per lei qua, sto ricevendo solo insulti, però no, adesso parte le battute, lei dice, visto che la manifattura è tutta aperta sostanzialmente, mentre nel lockdown marzo-aprile c'erano problemi anche per molte imprese manifatturiere, che le zone rosse, pur essendo le zone economicamente tra le più importanti del paese, Lombardia e Piemonte, aggiungo chiaramente anche la Calabria, e le zone arancioni non sono tutto il paese, e quindi una parte per esempio di bar e ristoranti in buona parte del paese resta aperta fino alle 18, e che vi sono molte più attività che potranno essere aperte, le elencavo prima, anche nelle zone rosse. Anche lei Gross, per concludere, è convinto che non vi possa essere un recupero completo neanche nel 2022, o invece la sento più ottimista stavolta? Ma io penso che il recupero dovrebbe concludersi nel 2022. Molto dipende, secondo me, dalla Cina e dagli Stati Uniti, perché quello che sta tirando in questi tempi è soprattutto l'export. Sì. E se l'Italia si può agganciare all'export europeo anche attraverso forniture per la Germania, le prospettive non sono così negative. Mm.

Focus Economia. Minuti. Dunque, cerchiamo di vederla anche in prospettiva, perché insomma, ascoltando anche le dichiarazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, ogni due settimane i dati verranno riaggiornati. Mi state scrivendo anche dal Lago di Garda che è un periodo in cui si consegnano i privati, consegnano le olive e i frantoi. Ma voglio dire, ma se consegni olive e frantoi ci sarà un accordo commerciale? Lo metti nell'autocertificazione, adesso non è che posso occuparmi anche delle olive, diciamo. Frantoi è un'attività professionale, se stai consegnando lì il raccolto, diciamo, delle olive frantoi, no? Non è che l'importante è le comprovate misure di necessità o salute o esigenze lavorative. Allora, ne dicevo, guardiamo anche in prospettiva, perché se c'è una cosa che sta accelerando grazie ai lockdown e al Covid è sicuramente l'e-commerce. Abbiamo commentato moltissime volte i dati anche di questi mesi, con però in maniera un chiaroscuro, oserei dire, perché da un lato oggi, secondo il report 2020, Amazon ha segnalato che ci sono 14.000 piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti su quella piattaforma dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020. E quindi anche includendo i tre mesi economicamente più duri del lockdown. La ricerca è di Amazon, c'è un testa a testa fra Lombardia e Campania come maggior numero di imprese piccole e medie presenti sulla piattaforma, oltre 1.000. E poi la prima delle 10 regioni è sempre la Campania, questo mi fa più che piacere, con 75 milioni di euro di fatturato delle imprese che vendono attraverso la piattaforma Amazon, talonata da Lombardia, anche lei più oltre 75 milioni. E poi questo per chi realizza attraverso i negozi Amazon per un export totale di 500 milioni. Però, dicevo, c'è un dato di grande dinamismo delle imprese, almeno segnala, immagino, anche Prodomo su Amazon. Dall'altro lato, però, l'Osservatorio Innovazione Digitale delle Piccole e Medie Imprese del Politecnico di Milano e Team System hanno fatto un'analisi in cui 3 imprese su 4 piccole e medie, stiamo parlando, prima del Covid e del lockdown, non effettuavano vendite online. La proporzione è migliorata perché dal 75% si è scesi al 66%, se ho ben capito. Chiedo conferma a Giorgia Sali, direttrice dell'Osservatorio di Innovazione Digitale delle Piccole e Medie Imprese del Politecnico. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, c'è stato un miglioramento, come era anche presumibile durante il lockdown, è ancora una cifra un po' bassa, per sì, essere buoni, due imprese. Purtroppo sì, confermo. Ma questo dipende dalla tipologia di prodotto o da un essere in ritardo anche che non si è riusciti a recuperare nemmeno, diciamo, con la spinta, diciamo così, del Covid? Allora, diciamo che prevalentemente la seconda componente. L'Italia rispetto agli altri paesi europei si schiera non ai primi posti in termini di e-commerce. Diciamo che secondo i dati di Eurostat in Italia il numero di piccole e medie imprese che vende online è circa la metà rispetto alla media degli altri paesi europei. Quindi già prima del lockdown avevamo un forte gap rispetto all'Europa. Diciamo che con il lockdown le piccole e medie imprese sono riuscite in parte a recuperare, e quindi qui entra in gioco quel dato che abbiamo stimato. Prevalentemente si tratta di un aumento delle piccole e medie imprese dell'utilizzo di piattaforme terze di e-commerce, come può essere Amazon ad esempio oppure eBay. Questo perché sviluppare una piattaforma e-commerce proprietaria diventerebbe estremamente oneroso, complicato e richiederebbe una serie di competenze che purtroppo ad oggi le nostre piccole e medie imprese mediamente non hanno. Diciamo che questo aumento di presenza online e di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese riguarda prevalentemente i prodotti piuttosto che i servizi. Questo perché il periodo di crisi ha impattato in particolare il mondo dei servizi, vediamo in primis tutto quello che è il mondo dell'hospitality. del ticketing, quindi su quello purtroppo l'e-commerce non è riuscito a compensare una perdita dovuta a un calo crollo della domanda. Ecco, volevo capire, perché io immagino che non sia l'assenza di consapevolezza dell'importanza dell'e-commerce a frenare. Capisco che se uno non era pronto prima del Covid ci vuole anche del tempo, ma è un tema di investimenti, o come mi sembrava di dire lei, anche di competenze presenti in queste imprese, perché in quel caso uno potrebbe ovviare appoggiandosi a società esterne di consulenza, se vuol dire, se non hai le dimensioni per avere un'assunzione interna, un profilo interno, esistono sempre le società di consulenza. Certo, è anche vero che le società di consulenza vanno reperite sul mercato e ci vuole comunque una figura professionale all'interno della piccola media impresa che gestisca la relazione e abbia un presidio sul progetto. Per dare qualche numero, secondo i dati Eurostat, soltanto il 42% degli italiani ha delle competenze digitali di base, e questo dato, diciamo, fa vedere che l'Italia si schiera all'ultimo posto rispetto ai principali paesi europei di controparte. Quindi diciamo che è un problema di competenze che non afferisce soltanto alle piccole e medie imprese, ma che è diffuso in tutta la forza lavoro a livello italiano. Inoltre il tema è anche molto legato agli specialisti ICT. Se guardiamo sempre i dati Eurostat, in Italia abbiamo il 3,5% degli occupati che sono specialisti ICT contro una media europea del 4%, e abbiamo anche un fortissimo tema di generazionale, poiché in Italia abbiamo una percentuale di manager under 40 che è tra le più basse a livelli europei. Quindi sicuramente il tema delle competenze è un tema centrale, che è dovuto da un lato a una mancanza di formazione adeguata, dall'altro a un tema generazionale, appunto. Sì, e quindi c'è la formazione, l'elemento generazionale. Come dobbiamo leggere, per concludere, dottoressa, il fatto che dal 75% pre-lockdown si è almeno scesi a un 66% di imprese che sono mosse verso l'online? Un movimento troppo lento, o comunque un movimento significativo che va in una certa direzione? Sicuramente un segnale positivo e un segno di consapevolezza del fatto che il digitale ormai è un canale fondamentale anche per le piccole e medie imprese. Quello che sarà importante è che questo passaggio all'e-commerce, ma in generale questo passaggio al digitale, non rimanga limitato al periodo dell'emergenza, ma diventi proprio un fattore di lungo periodo e rientri all'interno delle strategie di business delle nostre piccole e medie imprese. Sì, questo senza però che dimenticarsi della vendita anche tradizionale, nel senso che immagino che si possa anche avere, per alcuni tipi di clienti che non risiedono che risiedono in altre aree geografiche, in altri territori, l'online. Però io vorrei tornare a vedere anche i negozi di prossimità, se riescono a fare valore aggiunto e quindi ad avere un motivo, lo dico col massimo rispetto, di esistere, che non sia solo la prossimità, ma proprio anche il servizio che tu rendi. Anche perché io adoro l'online, per carità, però poi su come pagano le tasse Amazon e compagnia cantante ho parecchie critiche, ma questo insomma entrerebbe in un altro tema che già altre volte abbiamo affrontato. Quindi, per carità, l'online è per le imprese una ulteriore piattaforma, spero che non diventi l'unica, cioè che esistano anche forme reggono anche forme più tradizionali. Certo è che devono anche loro giustificare la loro esistenza, non solo col fatto che sei fisicamente lì. Grazie a Giorgia Sali, direttrice dell'Osservatorio di Innovazione Digitale delle PMI del Politecnico di Milano. Andiamo sul traffico. Focus Economia. E dal mondo delle piccole e medie imprese che devono spingere, ripeto, non è un canale sostitutivo, io voglio ancora immaginarlo come alternativo. Passiamo a un mondo che è stato molto penalizzato, non solo dal primo lockdown, anche dal smart working, quindi dal lavoro agile. Poi, diciamo, si era un po' risollevato in alcune aree con l'estate, poi è arrivato, è stato il primo settore ad avere penalizzazioni con i primi due DPCM e adesso lo è sicuramente nelle aree rosse. Mi riferisco alla ristorazione. La ristorazione è consentita dopo le 18 solo negli hotel, ma in molte aree, cioè Lombardia, Calabria e Piemonte in primis, ma anche nella zona arancione, attenzione perché, quindi Sicilia e Puglia, la chiusura dei bar e ristoranti è per tutto il giorno. C'è chi ha proposto un piano Marshall per la ristorazione, e sono è un'associazione che si chiama Unione delle Brand della Ristorazione Italiana, rappresenta 500 locali, più di 4.500 dipendenti, e sono anche marchi molto famosi, marchi che hanno tanti punti vendita, diciamo così. Siamo in collegamento con Vincenzo Ferrieri, che è fondatore e amministratore legato, tra l'altro, di Cioccolati Italiani, ed è presidente di Ubri. Buonasera Ferrieri. Buonasera direttore. Senta, che cosa proponete, al di là di tutte, abbiamo spiegato molto bene cosa prevede il decreto ristori e anche il bis, i ristoranti vengono moltiplicati per 1,5 rispetto ai fondi che hanno avuto ad aprile, perché 1,5 e non 2, come perché si ritiene sostanzialmente che i ristoranti lavorando almeno a pranzo e scusate, i bar per 1,5, i ristoranti per 2, non mi correggo subito, per 2, i bar invece per 1,5. Però qual è l'idea del piano Marshall per la ristorazione? Ma l'idea è che oggi sicuramente c'è un presente che è caratterizzato da quello di salvare quante più aziende possibili, quindi va bene la logica dei ristori, va bene la cassa integrazione, bisognerà ragionare ovviamente sugli affitti e anche sulle commissioni delivery, perché prima parlavate di e-commerce, oggi l'e-commerce nel mondo della ristorazione si chiama delivery, è attualmente un canale che non è sostenibile per i ristoratori, ma diciamo che questo è il presente. In realtà poi bisognerà guardare al futuro, e come dicevate voi a inizio trasmissione, purtroppo i dati per il 2021 e il 2022 non sono quelli di un ritorno alla normalità o comunque a dei livelli. No, certo, ma le faccio un esempio. FIPE oggi, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha detto che le imprese non riescono più a sostenere il peso degli affitti. Allora, le proposte vostre quali sono? Ma sugli affitti bisogna ragionare su una norma nazionale, si può pensare di ragionare su un credito d'imposta, perché il problema degli affitti o comunque la riduzione del fatturato non riguarda soltanto quella dei giorni del lockdown, ma riguarda una riduzione del fatturato di tutto l'anno 2020 e quindi di un valore dell'immobile che non è più a quello a livello a cui è stato locato. Però ecco, il tema è che comunque ci saranno 3 anni molto difficili e quindi bisogna ricostruire il settore nel prossimo 3 anni. L'obiettivo del nostro piano Marshall, chiamiamolo così perché oggi il piano Marshall è sinonimo di un piano shock economico finanziario, in realtà è quello proprio di restituire al paese fra 3 anni un settore che in realtà è ancora più virtuoso di quello del 2019, come attraverso un sistema di incentivi, agevolazioni fiscali che puntino a investimenti sulla crescita, che quindi puntino a generare, quindi a contribuire a maggiori investimenti sulla crescita, assunzioni del personale, eventualmente sostenibilità, investimenti in digitalizzazione. Più che un piano Marshall è un qualcosa che deve assomigliare a quello che è stato un piano Industria 4.0, quindi un presupposto di base che sia quello di in realtà generare poi maggiore gettito. Sì, perché ho visto che voi suggerite detassazione degli oneri contributivi, oltre che la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, detrazione totale di tutte le spese sostenute a supporto delle misure restrittive, e poi gli strumenti a supporto al lavoro temporaneo per 24 mesi, voucher, l'estensione del credito diciamo d'imposta del 60% della locazione degli immobili. Ecco, esatto, la domanda finale sono suggerimenti fatti per adesso, per il presente, ma in realtà bisogna lavorare sul futuro, e quindi sul futuro in realtà. Sì, la Coldiretti ha stimato in 85.000 i ristoranti che chiuderanno, che saranno non chiuderanno, che saranno bloccati del tutto, tranne che per l'asporto e il delivery nelle 3 regioni, e la Lombardia 51.000 tra bar e ristoranti. Senta, con chi ne avete parlato? Ma ne abbiamo parlato con FIPE, e insieme a FIPE stiamo cercando di portare la nostra iniziativa al Ministero dello Sviluppo Economico. Ma Patonelli o qualche suo vice vi ha ricevuto ancora? Ha dato segno di interesse? No, nulla. Perché in questo momento il governo è impegnato nel DL Ristori, però anch'io sono d'accordo con lei che serve anche guardare un po' più in là. La logica di mero assistenzialismo non sia quello che ci serve, bisogna pensare a creare ricchezza, e ovviamente bisogna pensare ai prossimi 3 anni, quindi a incentivare le aziende a investire. Sì, e tra l'altro su questo io continuo a dire, servono anche misure molto molto mirate a seconda dei settori. Il settore alberghiero, della ristorazione è una cosa, quello che proviamo a dire, l'abbigliamento è un'altra. E poi non voglio aumentare alimentare la polemica nel finale del programma, però prima o poi, adesso fatto sto DPCM e le zone, io vorrei anche sapere al governo come va tutto il piano per il recovery fund, perché mi è sparito dall'orizzonte. Per carità, c'è stata l'emergenza della seconda ondata, però qui non molliamo, perché posso anche, lo dico ad alcuni ascoltatori, criticare le regioni e criticare il governo. Non è che le due cose siano in alternativa. Perché recovery deve iniziare anche a creare delle iniziative, delle misure mirate su alcuni settori. C'è una parte del recovery che riguarda appunto la coesione sociale. Mi dica, sento che vuole... Guardi, ma infatti c'è un grandissimo problema di progettazione, quindi di pianificazione sui settori, e poi c'è un grandissimo problema di competenze specifiche verticali sul settore. Mm-hmm. Quindi non si può pensare che tutti gli incentivi o gli aiuti che si stanno pensando possono essere trasversali su tutti i settori, ma qui bisogna entrare nella specificità e nell'esigenza di ogni singolo settore. Sì, devo dire che in questo, avendo parlato anche col presidente degli albergatori, Bernabò Bocca, l'idea, loro hanno chiesto dei mini bot, cioè l'idea qual è di questi settori? Aiutateci a traghettare questo 2020 fino a un 2021, non con i sussidi, teneteci in vita, e poi chi ha la forza di lavorare. Poi ragioniamo sulla ricostruzione, perché sì, il tema vero è che qui si rischia di operare in un settore depresso con i fatturati per i prossimi 3 anni, quindi bisogna ricostruire. Se dobbiamo ricostruire, allora ricostruiamo un settore che sia ancora più virtuoso di quello del 2019. Quando parliamo di virtuoso intendiamo, incentiviamo le aziende a digitalizzare i pagamenti e quindi annulliamo il sommerso in quello che è il mondo della ristorazione, che è sempre stato un problema enorme. Incentiviamo le aziende alle nuove assunzioni, allarghiamo il credito d'imposta sugli investimenti, che oggi è solo al sud, si può allargare anche al nord. Mai come questa pandemia. Okay. Questa pandemia è stata super democratica. Allora, io facciamo una cosa: lei quando verrà ricevuto, tanto il tempo siamo qua noi, quando verrà ricevuto e vi sarà un'interlocuzione con il ministero, lei ci ricontatti, perché mi sembra un piano concreto oltre la semplice emergenza. Grazie intanto Vincenzo Ferrieri. Grazie a lei. Grazie a lei, presidente di Ubri, e noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi.